24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7.30, buongiorno cari ascoltatori con 24 mattino e staremo insieme fino alle 9, come sapete di consueto. Voglio subito lanciarvi il sondaggio, come abbiamo sentito in GR24, oggi parliamo di giustizia. Ieri approvato al Senato il processo breve, tra le polemiche e Berlusconi che dice non vado, mi consigliano gli avvocati in tribunale perché contro di me sono pronti plotoni di esecuzione. Siete d'accordo con questa frase del Premier, sì o no? Bisogna dire che per il momento il 75% di voi dice di no. Ne parliamo più avanti, ma questo è il tema caldo dei giornali che andiamo subito a sfogliare. In primo piano. È abbastanza unanime l'apertura dedicata a questo tema, sia al processo breve tra le accuse per il Corriere della Sera, Berlusconi nei tribunali contro di me plotoni di esecuzione. Il processo breve non mi basta, così titola Repubblica. Vediamo un'ampia carrellata. Processo breve sì con rissa per la Stampa, il Messaggero, processo breve sì tra le polemiche. Per il Fatto, adesso per colpa sua 100.000 reati impuniti, ovviamente su colpa sua è Berlusconi. La legge truffa per l'Unità, mentre tra l'altro questa è una cosa un po' singolare a mio modo di vedere, su Il Giornale, trovate tutto all'interno, ma sul Giornale nell'intera prima pagina non c'è una sola riga e un solo titolo, neanche minuscolo, dedicato all'approvazione del processo breve, così come su Libero. Sì, si trova UDC e processo breve, Berlusconi accende il doppio forno, ma più legato sulle regionali, a centropagina, ma in tutta la prima pagina non si trova davvero alcuna notizia riguardo a questo. Il Sole 24 Ore la mette in prima pagina con una foto di Alfano. Giustizia passa al Senato il DDL sul processo breve, anche se l'apertura è sulla competitività. Italia, paese forte del G20, lo vedremo più avanti. Ma iniziamo sempre restando comunque sul Sole 24 Ore. Donatella Stasio a pagina 11 spiega quello che è successo ieri, insomma la giornata molto molto tesa anche al Senato. Il titolo è In tribunale plotoni di esecuzione, per l'appunto Berlusconi contro i suoi giudici, sì del Senato al processo breve, bagarre in aula. C'è scritto quello che si prevede, vale a dire la prescrizione più veloce per i vari procedimenti. C'è anche un articolo di Roberto Turno riguardo a quello che è il danno erariale. Perché? Perché questo vale, il processo breve, anche per i procedimenti pendenti alla Corte dei Conti. In queste ore, scrive Turno, stanno cercando di tirare le somme con tutte le procure regionali. Ma le prime cifre circolano. Sarebbero 1.739 su 4.349 pendenti i procedimenti per danno erariale davanti alla Corte dei Conti, che rischiano di finire al macero. Importi che nessuno conosce, ma certo per alcune centinaia di milioni di euro, nomi anche famosi come il caso Rai per la nomina direttore generale di Alfredo Meocci, le consulenze alla giustizia con l'allora guardasigilli Castelli e i sottosegretari Iole Santelli e Giuseppe Valentino, che tra l'altro è proprio il relatore del disegno di legge sul processo breve. L'amnistia contabile, l'ennesima di una lunga serie da alcuni anni a questa parte, è contenuta in pochi passaggi del disegno di legge approvato ieri al Senato. Tra l'altro, sullo stesso tema si concentra sostanzialmente Sergio Rizzo a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. Corte dei Conti, inchieste tagliate, e tra questi si salva anche il relatore, proprio il relatore Valentino, relatore del processo breve, del disegno di legge, scrive Rizzo. Forse è anche appena un dettaglio, l'autore di tutte queste norme, Valentino, figura tra le 96 persone citate dalla Corte dei Conti in un procedimento pendente da ministro, sulle consulenze del Ministero della Giustizia. All'epoca lui era sottosegretario. C'è da dire però, dice Rizzo, che quella è un'inchiesta minestrone dove compaiono anche i nomi di Castelli, dei suoi predecessori Di Liberto, di Fassino, probabilmente destinata a chiudersi con un nulla di fatto. A maggior ragione, chiede Rizzo, non sarebbe stato più elegante se la firma sotto quegli emendamenti fosse stata diversa? Insomma, già si faranno i calcoli anche di cosa salterà. Repubblica lo affronta con un editoriale di D'Avanzo molto critico, in cui i termini sono quelli che insomma consueti di D'Avanzo nei confronti di Berlusconi. Lo chiama l'ego arca. È una legge che salva l'ego arca, qualche effetto immediato, la legge sfascia la già malmessa macchina giudiziaria, non c'è nessun contemporaneo provvedimento che asciughi le procedure, depenalizzi i reati, renda più efficiente l'organizzazione giudiziaria, qualifichi le risorse umane, incrementi gli strumenti materiali. E Repubblica affronta la questione a pagina 3 con un'intervista a Roberto Saviano, che aveva fatto questo appello proprio su Repubblica contro questa legge, un appello al Presidente del Consiglio che raccolse 500.000 firme. Dice ora Saviano: i criminali se la caveranno, a pagare è chi aspetta giustizia. In questa intervista a Carmelo Lo Papa, lo scrittore di Gomorra dice: ma perché i cittadini devono pagare due volte? Prima attendendo tempi lunghissimi, poi durante il processo vedendo cancellata la speranza di avere giustizia. È vero, bisogna velocizzare i processi, la lentezza della macchina giudiziaria italiana è scandalosa. Prioritario è giusto velocizzarla, ma rendendola più efficiente, mettendola in grado di funzionare, non si può pensare di velocizzarla a discapito di chi cerca giustizia. Poi dice: le 500.000 firme non sono vane. Quelle centinaia di migliaia di persone sono lì a ricordare che quella non è una legge condivisa e che non va nella direzione della democrazia, dice Saviano. Come detto, il giornale praticamente sì, ne parla a pagina 4. In prima pagina non trovate nulla al riguardo. Il titolo d'apertura di Feltri, Feltri fa un editoriale sui bamboccioni. Si parla dello sciopero indetto dagli immigrati il 1 marzo, per il quale CGIL e CISL e UIL sarebbero contrari. Secondo il giornale, il titolo è: sciopero vietato ai negri. Continua a usare questa parola che ha fatto molto discutere, anche se politically correct o no, Vittorio Feltri in prima pagina. C'è in poi la foto di Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica. A Scalfari l'immunità piace se serve a lui, e tra l'altro è un articolo che prende quasi tanto spazio quanto quello dedicato al procedimento, all'approvazione del processo breve. A pagina 4, a Scalfari piace l'immunità solo quando serve a lui. Si ricorda una vicenda del 1968, all'inizio della quinta legislatura. Eugenio Scalfari, insieme a Lino Iannuzzi, firmò un'inchiesta sul caso Sifara De Lorenzo, per il quale fu condannato dal Tribunale di Roma a 1 anno e 4 mesi di reclusione, e nel giugno fu eletto deputato nelle liste del PSI. Secondo il giornale, insomma, fu un modo per evitare entrare in Parlamento, dove c'era l'immunità parlamentare, per evitare il rischio di una condanna e dunque del carcere. Dunque a Scalfari piace l'immunità solo quando serve a lui, ora invece la critica, questa è la linea del giornale. Ma lasciamo il processo breve, tanto lo affronteremo più ampiamente alle 8.30 nel nostro sondaggio, che ricordo dovete votare. Berlusconi ha detto: plotoni di esecuzione i magistrati o i tribunali nei miei confronti. Siete d'accordo o meno con questa analisi? Su radio24.it nell'home page trovate un po' in basso a destra bianco nero, entrate lì e votate lì. La politica si anima con cose interessanti che voglio andare a citare, piluccare qua e là. Allora, in Puglia sapete che c'è la diatriba: candidano Vendola o non candidano Vendola al PD, candidano Vendola o Boccia. D'Alema vuole Boccia, assolutamente, e Vendola ce l'ha su con D'Alema, pare abbastanza anche ovvia la cosa. Perché D'Alema vuole Boccia? Perché se c'è Boccia, l'UDC si allea al PD, e allora dice D'Alema: con l'UDC vinciamo sicuro. Se c'è Vendola, l'UDC con Vendola non fa assolutamente nulla. E quindi D'Alema, ma volano anche parole grosse. Ieri pare che D'Alema abbia parlato di Vendola chiamandolo satrapo arrogante. Allora pare che Vendola abbia risposto dicendo: ma D'Alema sta facendo la balia di Boccia. Al che D'Alema dice: scusi, non ho capito la domanda, io la balia di Francesco Boccia? Vendola è un maleducato, un gran maleducato, non mi faccia finire. E parla con Fabrizio Roncone del Corriere, perché vede, con simili affermazioni Vendola non offende tanto me quanto piuttosto Boccia, che non è il suo legittimo avversario solo, ma è pure un economista, un politico di esperienza. Insomma, Vendola, io balia di Boccia, Vendola è un maleducato, dice D'Alema. Ma se vince deve venire da noi. E poi ancora, che amarezza, era un fratello minore, Vendola, ora, insomma, volano parole grosse. L'altra diatriba è quella di, che riguarda il ministro Brunetta, che è ormai ufficiale, ieri Berlusconi ha detto lo voglio candidare a sindaco di Venezia, è un po' il sogno da sempre di Brunetta. Berlusconi ha detto voglio lui. Il problema è, come ha detto Francesco Giavazzi, recente sul Corriere della Sera, che insomma come si fa a governare una città così importante, internazionale, mondiale, complicata come Venezia e fare allo stesso tempo il ministro a Roma. Renato Brunetta oggi fa un'intervista alla Stampa e conferma: tengo tutte e due le poltrone, non posso fare benissimo, c'è bisogno di confermarlo ancora, dice. La risposta è sì, resto ministro dovessi diventare sindaco. Riguarda le alleanze con l'UDC, dice, ancora tutto aperto, open, vedremo, farò tutto con grande sacrificio, in Francia è del tutto normale, i grandi sindaci sono anche ministri, d'altronde le mie riforme al ministero saranno a regime non prima di un anno e voglio essere io a seguirle fino alla fine, sarà una gran faticaccia ma non ho dubbi che ce la farò. Insomma, ma lei è convinto di vincere con un ampio margine? A Venezia c'è un sondaggio al riguardo. Questo dice Brunetta, che dice dunque rimarrò, nel caso di elezione a sindaco, anche al ministero. L'altro tema che sta scuotendo da un po' di mesi, ma ieri è iniziato a tornare sui giornali, oggi viene ampliato, è quello della vicenda che coinvolge il sindaco di Bologna, Del Bono. È una vicenda che a Bologna è nota come Cinzia Gate. Dal nome di Cinzia Cracchi, che era l'ex segretaria, anche ex compagna del sindaco, quando si è rotto il rapporto sentimentale, da quel momento sostanzialmente Cinzia Cracchi sta parlando anche con i magistrati e starebbe parlando di viaggi in giro per il mondo, Santo Domingo, New York, Pechino, Parigi, in cui si utilizzava una carta, un bancomat anche intestato a un amico prestanome, affidato alla donna. Insomma, sarebbero spese per le quali la magistratura vuole vederci chiaro. Insomma, quelle spese erano spese personali dell'attuale sindaco, che allora era assessore regionale, oppure erano spese, come dire, carte intestate chi? Alla regione, ai contribuenti, non si sa, insomma, questo è il Cinzia Gate, Sexy Gate al ragù, questo è il titolo di un'intera pagina del Fatto, Bologna, nuove accuse della ex fidanzata al sindaco Del Bono, mi ha offerto soldi per tacere, ma così lo troviamo anche sul Quotidiano Nazionale, il sindaco mi offrì soldi per tacere, Del Bono nella morsa del Cinzia Gate, e anche sul Corriere oggi ci ritorna, insomma Del Bono per il momento tace, ma certo c'è molta tensione. Un altro tema legato alla politica che mi piace oggi citare, che ha troppo poco spazio, è la vicenda che riguarda Rosario Crocetta, l'ex sindaco di Gela, da anni sotto nel mirino della mafia, ora è europarlamentare tra l'altro, e che contro il quale sarebbe stato sventato un nuovo tentativo di attentato alla vita. Rosario Crocetta oggi scrive sull'Unità un bellissimo articolo a pagina 21. Ne leggo alcuni stralci. È dal marzo del 2003, quando sono diventato sindaco di Gela, che coesisto ogni giorno col pensiero della mia morte e ogni notte concludo la mia giornata con un segno di croce, un sia fatta la tua volontà e ti ringrazio, Signore, per il giorno che mi hai dato. Sono un condannato a morte della mafia, forse tra tanti, forse tra pochi, comunque un condannato che ama la vita e ama la società nella quale vive. A volte, quando vado in giro con le due auto di scorta che in Italia mi accompagnano dappertutto, guardo dai vetri scuri della mia blindata l'espressione di qualche cittadino che, non vedendo che a viaggiare ci sono io, pensa che sono un privilegiato con l'auto blu. Poi, quando scendo dalla macchina, avverto immediatamente la solidarietà e l'affetto. Per me, abituato a stare con tutto il mio corpo nella mischia in mezzo alla gente, quella macchina è quasi un carcere. E sono quasi 7 anni che vivo come un carcerato, dentro una casa blindata, con le serrande abbassate senza vedere il sole, in una terra, la Sicilia, dove il sole è forse una delle poche cose che ti rimane. Solo che gli altri detenuti stanno nelle carceri perché colpevoli di aver fatto atti illegali. Io invece sono colpevole di battersi per la legalità, colpevole sin dal primo giorno che sono diventato sindaco di aver detto no alle cosche, di aver detto che gli appalti si dovevano fare in regola, che i mafiosi non potevano stare dentro il comune, che bisogna rompere i rapporti tra criminalità organizzata, economia e politiche. Ho concepito il mio lavoro a servizio degli altri, pensando che la politica non è una cosa sporca, ma il più grande atto d'amore che si può fare nei confronti degli altri. Ed è con questo senso di dignità che affronto questa vicenda, sapendo che ogni giorno sono, forse ancor più di prima, in pericolo e sapendo che tante belle persone mi hanno espresso solidarietà, che tanta gente vuole vivere in un paese pulito e libero e ci sono tanti uomini e donne che ogni giorno si battono per la libertà di tutti noi, a cominciare da quei poliziotti, quei magistrati che rischiano la loro vita per difendere la mia e la nostra. Grazie. Questo è Rosario Crocetta, io carcerato da 7 anni, non vedo il sole di Sicilia per amore della legalità. In primo piano. Abortista e presidente. Questo è il titolo che campeggia in prima pagina di Libero. È un duro attacco che peraltro è portato avanti anche dal Foglio, ma sappiamo, Giuliano Ferrara, l'abbiamo detto da qualche giorno, sta duramente attaccando la candidata del PD in Lazio, Emma Bonino. Stiamo parlando di lei, abortista e presidente, oggi sulla prima pagina di Libero, mentre il Foglio vi dedica anche qui un articolo più importante di pagina 1, il diavolo a pagina 11, si parla di Emma Bonino. Abortista e presidente, Libero perché? Perché mette all'interno, tra l'altro, una foto che risale al 1975, che ritrae Emma Bonino curva davanti a una donna, gambe divaricate, nell'atto, vero o messo in scena per il servizio, uscito sulla rivista Oggi, di strappare la vita a un bambino. Ma l'attuale candidata radicale, scrive Andrea Morigi, a quei tempi combatteva una battaglia per il diritto a una maternità scelta, dirà nel 2006 a Grazia. Da militante radicale agiva infilando il tubo di una pompa da bicicletta nell'utero delle donne che si rivolgevano a lei per uccidere il figlio che portavano in grembo. Era l'attuale vicepresidente del Senato ad aspirare personalmente il contenuto dell'utero. Poi lo depositava in un vaso da marmellata e lei a ricostruire il macabro procedimento, tralasciando soltanto un particolare: i feti finivano tra i rifiuti. Insomma, l'attacco è duro, frontale. Come dire, può questa donna abortista diventare presidente del Lazio? Vi lascio ovviamente con questo interrogativo che lancia Libero. Oh, cambiamo tema, lasciamo la politica. Trovate molti commenti sulla proposta, abbiamo sentito anche Giuliano Cazzola in GR24, di sostituire l'ultimo anno di obbligo scolastico con 12 mesi di tirocinio sul campo. Scuola o lavoro, a 15 anni la scelta. Così è una pagina intera del Messaggero. Torna l'apprendistato, sostanzialmente, l'obbligo ridotto di un anno, c'è la polemica, ci sono i favorevoli, ci sono i contrari, i sindacati già promettono uno sciopero, l'obbligo può finire a 15 anni, titola il Corriere della Sera, il lavoro d'apprendisti equiparato all'ultimo anno. C'è una intervista su Repubblica di Fioroni, che è l'ex ministro all'istruzione, che dice: un errore imperdonabile, alle imprese questo non serve, occorre far restare gli adolescenti a scuola il più possibile per perseguire questo obiettivo. Affrontando il tema lavoro, economia, insomma, prendo in mano Sole 24 Ore, dove c'è molto dedicato a Obama, alla pagina 3, ma perché lo tralascio? Perché tra l'altro Oscar Giannino ne parlerà alle ore 9, un anno di Obama. Perché c'è stata questa sconfitta bruciante dopo che, sapete, è morto il senatore Ted Kennedy e dunque si è andati alle elezioni per il seggio suppletivo al Senato del Massachusetts, hanno vinto i repubblicani e da 45 anni, insomma, invece c'era Ted Kennedy, i democratici. È una dura sconfitta perché cambia gli equilibri al Senato sulla questione della riforma sanitaria. Ma Oscar Giannino ne parlerà di un anno di Obama e di questa situazione un po' di impasse difficile. Il Sole 24 Ore mette invece in prima pagina Italia, paese forte del G20. È un'interessante ricerca dell'Aspen Fondazione Edison, che tra l'altro fissa nel 2041 l'anno del primato della Cina e che a pagina 4 e 5 è analizzata con diversi criteri. Vale a dire, si prendono in esame, che ne so, la popolazione, le infrastrutture, l'energia, il debito pubblico, la ricchezza, l'auto, i telefoni, il turismo, l'alta tecnologia, la disoccupazione, l'educazione, la salute, tutti questi parametri per capire, insomma, a che punto è l'Italia. Ebbene, l'Italia sostanzialmente export, ricchezza delle famiglie, welfare, con questi asset il sistema Italia può giocare un ruolo da protagonista al tavolo del G20. Questa ricerca che trovate analizzata con tanti dati all'interno fa capire che, come detto, nel 2041, questa è la previsione secondo questa ricerca, sarà la Cina prima nel mondo. Vabbè, tralasciamo la vicenda Corona, che però è stato assolto. L'ultima volta aveva detto mi vergogno di essere italiano, questa volta in un'altra inchiesta, quella in cui si è profuso con tanto lavoro il PM Woodcock, è finita a catafascia. Insomma, il giudice per l'udienza preliminare ha demolito l'inchiesta Woodcock, il fatto non sussiste, assolto Corona, che ora dice un po' da gradasso, ne vedremo delle belle e qualcuno tremerà. Come ultima citazione voglio andare sul giornale Firenze, il giudice in malattia fa l'attore. Galeotte sono state le locandine di uno spettacolo benefico titolato La fortuna di perdere. Tra i protagonisti Bruno Maresca, 59 anni, napoletano, una celebrità non tanto e non solo come attore, ma soprattutto come magistrato di punta a Firenze. Solo che il dottor Maresca, scrive Maria Teresa Conti sul giornale, da 3 mesi per l'amministrazione della giustizia risulta in malattia, convalescente dopo un delicato intervento chirurgico al cuore. Una bufera, anche perché a Firenze Maresca non è un giudice qualunque, ma un magistrato piuttosto conosciuto. Se accerteremo un comportamento dissonante dalle regole, ha dichiarato il presidente del tribunale, il caso verrà segnalato a chi deve decidere su eventuali sanzioni o azioni disciplinari. Con questa chicca del giornale vi lascio, vi ricordo il sondaggio che dovete votare su radio24.it, vale a dire Berlusconi, i tribunali sono plotoni di esecuzione, i tribunali nei miei confronti, che ne pensate? Sono le 8:16, buongiorno, eccoci qua ancora 24 mattino, siamo pronti per l'economia. Soldi e dintorni. Allora Deborah Rosciani, eccoci qua. Caro Alessandro, buongiorno. Forchetta, a tutti. Pronta? Coltello, bavaglino. Sempre in assetto di guerra sono. Tovaglia. Davanti al buon cibo. Parliamo di cibo anche sì, oggi. Infatti, esatto, anche se in realtà la storia di cui parliamo non ha fatto fare una gran bella figura ai produttori di mozzarella di bufala in Campania. Non generalizziamo, per carità del cielo, perché stiamo parlando di un caso che è comparso su tutti i giornali in questi giorni, ma che ovviamente sta vivendo ancora degli accertamenti piuttosto approfonditi. Però fatto sta che, come è noto, il ministro delle politiche agricole ed alimentari, appunto Luca Zaia, ha commissariato il consorzio di tutela della mozzarella di bufala. Un commissariamento che per la verità non sarebbe un commissariamento al 100%, secondo quanto hanno anche specificato i rappresentanti di questo stesso organismo, perché loro avrebbero precisato che si tratta di una disposizione, di un invio di una commissione formata da 4 esperti che si aggiungeranno nei prossimi 3 mesi al lavoro dei rappresentanti del consiglio di amministrazione appunto di questo consorzio. Detto questo, tutto ciò ci ha portato oggi a riparlare della qualità dei prodotti che mettiamo sulla nostra tavola. Noi già ne avevamo parlato un paio di volte a Soldi e Dintorni sotto Natale, tra Natale e Capodanno, quando si erano verificati casi di sequestri di prodotti ittici in diverse pescherie italiane, ambito nel quale peraltro è molto difficile che si rispetti pienamente la normativa sull'etichettatura dei prodotti. Poi era stato anche abbastanza clamoroso il caso del sequestro, sempre intorno alla fine di dicembre, di decine di tonnellate di prodotti da forno in diversi panifici d'Italia. Insomma, il tema della sicurezza alimentare ogni tanto si ripropone alla cronaca nazionale. Noi oggi, appunto, grazie a questo assist, o a causa di questo assist che ci viene fornito dal caso del consorzio di tutela della mozzarella di bufala appunto campana, torniamo su questo argomento. Allora saluto e ringrazio di essere con noi questa mattina primo Mastrantoni, segretario dell'ADUC, un'associazione dei consumatori, peraltro anche biologo. Dottor Mastrantoni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, noi ritorniamo a parlare, come facciamo spesso, del valore del Made in Italy gastronomico e di come fare per riconoscerlo, per sceglierlo e anche per premiarlo mettendolo sulle nostre tavole. Intanto le chiedo un commento su questa vicenda che ha del clamoroso. C'è da rassicurare subito i consumatori che non è che ci siano in circolazione mozzarella di bufala, come dire, contraffatte fatte nel senso che sono dannose per la salute, di fatto non vengono fatte completamente, secondo i rilievi che sono stati fatti, appunto, al 100% con la mozzarella di bufala. In sostanza il tema è questo, Mastrantoni. Sì, sì, certamente, non parliamo di sicurezza alimentare, non è questo il caso, parliamo di frode in commercio, che è un'altra cosa. La mozzarella di bufala campana, che è una mozzarella a denominazione di origine protetta, deve essere fatta esclusivamente con latte di bufala, così dice il disciplinare. Nei campioni, così come ci viene comunicato dal Ministero, in campioni rilevati nelle grandi distribuzioni, si è trovato anche il latte vaccino, cioè il latte mucca, che invece non ci dovrebbe essere nelle mozzarelle di bufala campana. Tra l'altro ricordo, magari faccio proprio come dire la statistica, dottor Mastrantoni, 106 campioni dei 530 prelevati nella grande distribuzione fra settembre e novembre, da cui è partita l'indagine del Ministero, hanno presentato questo quantitativo di latte di mucca superiore al 30%, quindi neanche tracce trascurabili, tutto sommato. No, è piuttosto consistenti, è un terzo, vuole dire che la mozzarella di bufala per un terzo in quei casi, ovviamente, è costituita da latte di mucca e non da latte di bufala, quindi è una chiara frode in commercio. Frode in commercio che, ripetiamo, non significa una minor sicurezza, però chiaramente se si paga un prodotto di qualità, qual è il DOP campano, cioè la mozzarella di bufala campana, e poi si ha un altro tipo di prodotto, evidentemente si sta frodando il consumatore. È partita anche, esatto, infatti, è partita tutta una polemica, ovviamente, perché qualcuno ritiene, ovviamente gli esponenti di questo consorzio, che sia stato fatto un lavoro d'arte solo per danneggiarli dal punto di vista addirittura politico, ma a noi tutto questo non interessa. Di fatto, di sicuro sempre sul mercato, Mastrantoni, c'è chi fa il furbo, succede sempre così in tutti i settori. Lei crede che sia possibile che i produttori che hanno una ottima reputazione in tutto il mondo, c'è una zona che in via esclusiva produce questo prodotto che è ottimo e viene anche tra l'altro in larga parte esportato, lei ritiene possibile che si possa essere verificato un caso di questo tipo? È chiaro che non mettiamo in discussione i risultati di questa indagine, però non si rischia di affossare un prodotto con dei messaggi sbagliati? Ma il problema è che la mozzarella di bufala campana è stato oggetto di attenzione anche negli anni e nei mesi passati, quindi è un ripetersi di vulnus a un prodotto di eccellenza italiano. La mozzarella di bufala campana DOP è un prodotto di eccellenza come altri prodotti. Se questi prodotti di eccellenza hanno dei problemi sia dal punto di vista della sicurezza alimentare negli anni passati, sia dal punto di vista della frode in commercio, chiaramente è un pugno in un occhio a tutto il sistema agroalimentare italiano di qualità, per cui il prodotto DOP che dovrebbe essere denominazione di origine protetta o DOC denominazione di origine controllata, che dovrebbe essere la punta di diamante della nostra produzione della qualità, viene meno, perché nessuno poi quando troverà un prodotto DOP o DOC sarà sicuro al 100%, perché la battuta ovvia sarà quella, eh sì, come la mozzarella di bufala campana. Quindi purtroppo questo è un vulnus, un attacco proprio alla nostra produzione di qualità, che è quella su cui noi dobbiamo puntare, perché non abbiamo estensioni territoriali come quelle della Cina, quindi dobbiamo puntare alla qualità dei nostri prodotti. Dottor Mastrantoni, segretario, nel nostro paese il posto più comune dove trovare la mozzarella di bufala è nel supermercato, una volta che viene prodotta appunto a Caserta, a Salerno, nel Basso Lazio, nel Napoletano, ma anche a Foggia. Questi prodotti finiscono appunto sui banchi del supermercato. Ovviamente noi ci fidiamo perché, almeno a meno che non venga dimostrato il contrario, il marchio DOP è quello che ci garantisce anche completamente sulla qualità, sull'origine e soprattutto anche sulla freschezza. Le chiedo, non so se lei è esperto anche di questo, quanto può essere mantenuto sul banco della gastronomia del supermercato questo prodotto? Ma qualche giorno, perché poi le qualità organolettiche di un prodotto così delicato man mano vengono meno, voglio dire, non è che ci si ammala se si mangia la mozzarella di bufala dopo una settimana. Chiaramente però il sapore, quindi le qualità organolettiche del prodotto scemano nel corso dei giorni, e non dovrebbe la mozzarella non dovrebbe essere conservata nel frigorifero, come ci dicono gli intenditori, perché perde delle sue qualità, anzi dovrebbe essere prima del consumo leggermente riscaldata nella sua acqua per poterne esaltare tutte le caratteristiche. Quali altri formaggi secondo lei dobbiamo controllare e monitorare un po' più attentamente? Ma noi un po' tutti, noi dobbiamo attivare un sistema di controlli e stesso a tutti i prodotti agroalimentari italiani, e in particolare in maniera feroce, dobbiamo, potrei dire, in quelli che puntano sulla qualità, perché la qualità deve essere garantita. Sappiamo che cosa è successo anche nel campo dei vini, no? Nell'anno passato con il Brunello di Montalcino. Con il Brunello di Montalcino, che anche lì è un prodotto, anche quello è un prodotto di eccellenza, e non si può pensare che un prodotto di eccellenza, insomma, subisca delle frodi in commercio. È la nostra immagine all'estero che viene limitata, ma soprattutto la fiducia dei consumatori che viene meno. Quindi controlli serratissimi, in primis proprio nei prodotti DOP, quelli cioè di qualità, di denominazione di origine protetta. Siamo il maggior paese europeo che ha prodotti DOP, e quindi è una nostra, veramente è la punta di diamante della nostra produzione. Insomma, oscurarla in questo modo è veramente diciamo criminale dal punto di vista proprio della diminuzione dell'immagine, esatto, dell'immagine e soprattutto per tutti i produttori che sono assolutamente seri in questo senso. Voi comunque avete chiesto la cancellazione dell'elenco delle DOP della mozzarella di bufala campana, sì, e un'altra vostra associazione, non concorrente insomma, collega, addirittura ha ammesso: certo che infrangenti di questo tipo è totalmente difficile per noi rassicurare i consumatori, ma Strantoni, però dobbiamo farlo, insomma, come ci dobbiamo comportare a questo punto davanti ad un banco del supermercato? Ma noi tanto dobbiamo avere comunque fiducia in questi prodotti e comunque nel sistema agricolo agroalimentare italiano, questo è evidente. Dobbiamo soltanto chiedere a chi ci sta di fronte dall'altra parte alcune garanzie che può dare relativamente, cioè chi l'ha detto alla vendita che sta dall'altra parte può rassicurarci, ma lui non è in grado di darci garanzie sia per quanto riguarda la frode sia per quanto riguarda la sicurezza alimentare. Dobbiamo stimolare da parte nostra lo facciamo, le autorità competenti, perché queste indagini vengono estese in maniera sistematica. Sono le ASL che dovrebbero intervenire, ci sono anche altri organismi, l'Istituto per la Repressione delle Frodi del Ministero dell'Agricoltura, ci sono i NAS, insomma, voglio dire, ci sono tutta una serie di strutture statali e locali, regionali, che dovrebbero garantire il prodotto. Questo noi possiamo soltanto che sollecitare, come associazione di consumatori, ma anche come cittadini, possiamo sollecitare l'autorità competente ad intervenire, ad essere presenti costantemente, dico costantemente, specialmente per quei prodotti che nel passato si sono dimostrati dubbi sia per quanto riguarda la sicurezza alimentare sia per quanto riguarda le frodi in commercio, come ci diceva prima. Mastro Antoni, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. E comunque, insomma, gli accertamenti sono in corso e vedremo come andrà a finire, se ha ragione il consorzio, se ha ragione il ministro Zaia. Alessandro, siamo a pranzo? Mamma mia, guarda, una fame, non mi dire niente, come al solito comincio alle 6 del mattino già io a ingurgitare roba. Allora, alle 12 Salva Danaio. Alle 12 Salva Danaio, oggi parliamo di queste nuove forme di investimento che puntano sulle energie rinnovabili, nelle questioni ambientali, quindi ci sono tanti prodotti, gli ascoltatori e i risparmiatori sono sempre molto interessati, quindi i fondi di investimento nella mozzarella di bufala non ci sono ancora, ma chissà. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano: dal Senato il sì al processo breve, ieri tra le proteste dell'opposizione, Berlusconi sui processi che lo vedono coinvolto dice sono plotoni di esecuzione, ma ne parliamo tra pochissimo. L'ultimo anno di scuola obbligatoria dai 15 ai 16 anni si potrà assolvere anche con l'apprendistato, è la novità presentata nel disegno di legge sul lavoro alla Camera, critica l'opposizione, i sindacati dicono così si smantella l'obbligo scolastico. Ad Haiti la terra trema ancora e c'è paura, ma ieri è stata estratta viva dalle macerie a 8 giorni dal sisma una neonata di 15 giorni, Elizabeth, e nelle ultime ore sono stati salvati anche una bimba di 5 mesi e un bimbo di 5 anni. Per il calcio ieri si sono recuperate due partite della 17esima di campionato, Genoa-Bari 1-1 e Bologna-Atalanta 2-2. In Coppa Italia invece la Fiorentina è la prima semifinalista, ha battuto la Lazio 3-2. E allora, quando sono le 8:34 minuti, parliamo di giustizia, parliamo del processo breve, parliamo della dichiarazione del Premier. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, il presidente del Consiglio Berlusconi, proprio nel giorno in cui il processo breve è stato approvato al Senato, ora va alla Camera, dice: i plotoni di esecuzione mi aspettano nei tribunali, sostanzialmente. Non mi presento sul Consiglio degli Avvocati perché nei miei processi ci sono plotoni di esecuzione. C'è da dire che il processo breve approvato, che cosa prevede? Oggi leggete bene sul Sole 24 Ore, i processi relativi a reati con pena inferiore nel massimo a 10 anni devono essere estinti in 3 anni se non si arriva a giudizio in primo grado, poi 2 anni per l'appello, 1 anno e 6 mesi per la Cassazione. Per i reati più gravi invece questo schema 3-2-1 si allunga un po' nei tempi, 5 fino a 5-3-2, 5 anni per il primo grado, 3 al secondo, 2 al terzo. C'è questa norma, che è una norma transitoria che ha fatto più discutere, più litigare al Senato, che sostanzialmente prevede per le pene, per i reati commessi prima del 2 maggio 2006, dunque quelli indultati, che il primo grado scatti a 2 anni. Insomma, poi la questione vera, su cui l'opposizione si è battuta molto, è dire è che per salvare Berlusconi, dicono dall'opposizione, dai suoi processi, vanno a catafascio centinaia di migliaia di processi altri. Allora, io vorrei partire dal senatore Enrico Musso, che saluto. Il senatore, buongiorno, lei è del Popolo della Libertà, buongiorno senatore. Ieri però, oggi lei è citato dai giornali, è l'unico del Popolo della Libertà, insomma della maggioranza, che si è alzato, ha fatto un intervento dicendo: io questo provvedimento sostanzialmente non lo voto. E perché? Ma guardi, non lo voto per un ragionamento che era un po' implicito nella presentazione che ha fatto lei, cioè secondo me con questo provvedimento si sono voluti affrontare due questioni distinte, dichiarandone una sola. In altri termini, si è dichiarato che questo era un provvedimento per la ragionevole durata dei processi, e questo è un problema che l'Italia certamente ha, e fa bene il governo ad affrontarla e la maggioranza a cercare di risolverlo, ma appunto c'era questo altro obiettivo non dichiarato, che secondo me era legittimo e si sarebbe dovuto dichiarare, che è quello della tutela del Presidente del Consiglio, non di Silvio Berlusconi, perché in passato questo ha riguardato anche altri Presidenti del Consiglio, cioè la tutela del Presidente del Consiglio da possibili, diciamo, incursioni di una parte della magistratura. Allora, a mio avviso, se si fosse dichiarato che c'erano due questioni distinte, si fossero fatti due provvedimenti distinti, ciascuno sarebbe stato più efficace e non ci sarebbe stato quel danno collaterale di questa norma transitoria che lei ha citato e che diciamo colpisce processi cominciati da più di X anni che sono automaticamente estinti in questo momento per la retroattività di questa norma. Ma senta, lei è intervenuto tra l'altro in aula. L'opposizione, dicono i giornali, manco un po' si è accorta del fatto che lei stava in qualche modo, era l'unico della maggioranza, il PDL, a dire: guardate, io insomma, cosa ha avuto un po' di problemi di che tipo a dire, a votare questo provvedimento? Non vorrei dire di coscienza, ma dire perché? Cioè non... Ma non è questione di coscienza, secondo me, come ho detto, il dichiarare apertamente che esisteva anche l'altro obiettivo e fare dei provvedimenti, a mio avviso, efficaci da questo punto di vista, come può essere quello del legittimo impedimento che è in discussione alla Camera, sarebbe stato il percorso più trasparente. In questo ho criticato anche la sinistra, che fa finta di non vedere che questo non è un problema di Berlusconi Silvio, è un problema del Paese, perché 3 delle ultime 5 legislature si sono concluse anticipatamente per via giudiziaria. Pensiamo a Prodi, che è caduto per un'indagine su Mastella che si è dimostrata inconsistente. Senta senatore, siccome la stanno ascoltando, vi voglio salutare innanzitutto l'onorevole Giorgio Stracquadagno del Popolo della Libertà. Onorevole, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei. Così come l'onorevole Luca Orlando, che è il portavoce dell'Italia dei Valori. Buongiorno Orlando. Buongiorno. Allora, la sta ascoltando Stracquadagno, che è notoriamente vicino a Berlusconi. Musso, lei ha detto: senatore, manderò a Berlusconi un po' di pesto, magari senza aglio, perché sappiamo che al Presidente del Consiglio l'aglio non garba moltissimo, e la chiudiamo così. Musso, era una battuta, è chiaro che è una battuta. Voglio dire, ma lei si sente secondo lei dentro il partito dopo una decisione del genere? Ma guardi, assolutamente sì, l'ho precisato anche nell'intervento. Questo non mette minimamente in discussione né la mia vicinanza politica e umana, diciamo, ma non mette neanche in discussione il tema fondamentale, cioè che effettivamente si debba provvedere non solo alla giusta durata dei processi, come il provvedimento fa, ma anche ad una efficace, duratura tutela del potere esecutivo da possibili interferenze del potere giudiziario. Sì, quindi lei dice questo c'è, questo problema c'è, non le piace il modo in cui è stato affrontato. Stracquadagno, e la chiudiamo con un vasetto di pesto, cosa vuole dire a Musso? Ha fatto un errore politico secondo lei o ha posto un problema? Ma secondo me è semplicemente un difetto di informazione. Chi non l'ha mai dichiarato che questo procedimento aveva, che questa norma che noi abbiamo approvato e vogliamo approvare anche alla Camera, così come è stato approvato al Senato, non avesse un impatto significativo anche sulla tutela del Premier dal punto di vista giudiziario, visto che il Premier è oggetto di una prescrizione giudiziaria. È quello che ha detto ieri nella dichiarazione di voto al Senato il capogruppo Gasparri, e il collega Musso era lì, era ancora in tempo per modificare il suo atteggiamento. Quindi evidentemente, come dire, è un po' vittima della cattiva informazione anche egli. E questo mi fa riflettere. In che senso? Sul fatto che forse non siamo stati capaci di informare sufficientemente bene i cittadini sulle nostre tesi. D'altra parte, io apro i giornali di oggi, c'è una potentissima critica rispetto alla norma transitoria, rispetto ad altri punti del provvedimento, e non c'è una riga riportata sui motivi per cui queste norme sono state introdotte da noi nell'ordinamento e su quali sono gli argomenti che noi abbiamo utilizzato a favore di questa nostra decisione. Primo tra tutti di questi argomenti, che l'idea iniziale non è nostra, ma viene dai nostri amici dell'opposizione. Cioè provvedimenti del passato che però insomma forse erano nati con una ratio diversa, Stracquadagno. Cioè, voglio dire... Perdoni, lei non mi può dire erano nati con una ratio diversa, perché questo si chiama processo alle intenzioni. Quello che conta nel procedimento legislativo è che cosa dicono le norme che si propongono. Ora, noi abbiamo ripreso una ispirazione sulla durata dei processi che è nata nel Partito Democratico due legislature fa, si è prolungata fino ad oggi, e che nella conferenza sulla giustizia del luglio 2009 del Partito Democratico, segretario Veltroni, è stata presentata come uno dei pilastri della soluzione della giustizia penale, cioè la certezza dei tempi del procedimento e l'estinzione dei processi nel caso questi si prolungassero oltre una certa durata per ogni singolo. Come ci chiede l'Europa, anche se oggi il Corriere della Sera dice, Luigi Ferrarella, quando l'Europa ci chiede, ci condanna perché i detenuti vengono tenuti in 2 metri quadri del carcere, insomma, facciamo le orecchie un po' non ci sentono dall'Italia, adesso che ci hanno condannato a questo, giustamente è giusta e legittima la durata ragionevole del processo. Chi è che non vuole la durata ragionevole, chi vuole i procedimenti di 20 anni? Nessuno. Però in questo caso abbiamo ascoltato. Ma vorrei andare da Luca Orlando, Italia dei Valori, che come sempre è stata la forza, insomma, perché più combattiva, anche con proteste molto, molto scenografiche, molto colorite al Senato. Insomma, voi dite è solo un provvedimento per salvare Berlusconi? Questo dite? Ma la nostra critica molto forte, molto dura, molto evidente, nasce dal fatto che si parte da un'esigenza corretta e si trova una soluzione che sicuramente corretta non è. Mi spiego, che ci sia un'eccessiva durata dei processi è indubitabile, ma piuttosto che intervenire sulle cause di questa durata, vuol dire dotando i magistrati di mezzi, strutture necessarie, dotando l'apparato giustizia di quanto necessario, formulando norme procedimentali che accelerano i tempi del processo, si fa un'operazione drastica, si estingue il processo. Lei poc'anzi ha citato le cattive condizioni delle carceri, è come se di fronte alle critiche dell'Europa che dicono che le carceri sono luoghi spesso insalubri, malsani, non degni di un paese civile, qualcuno proponesse, allora visto che le carceri sono malandate, chiudiamo le carceri e mandiamo a casa tutti i detenuti. Ecco, questo è il vizio di fondo di questa legge, che sostanzialmente produrrà la estinzione di un numero imprevedibile ma enorme di processi, e con l'estinzione del processo evidentemente l'impunità dei rei. Secondo passaggio, questa legge è tutta costruita in modo che i tempi previsti perché ci sia la ragionevole durata del processo valgano a garantire l'impunità di una persona. Mi sembra che sono due elementi che in un paese civile non verrebbero accettati. Non si distrugge il processo rendendo impuniti i criminali perché i tempi sono molto lunghi, e non si estende all'intera comunità dei degli imputati una norma di privilegio per una persona. Allora, il tema è dibattuto. Adesso, prima di andare al traffico, voglio andare a Latina da Doriano, vediamo che ne pensa. Ci ha chiamato 800 24 0024. Doriano, lei da buongiorno. Che dice? Buongiorno dottore, buongiorno. Senta, io volevo portare alla luce un fatto, il mio fatto personale, che è emblematico. Allora, io processo, io sono parte lesa, sì. E il tutto è iniziato nel 2004, è stato rinviato a giudizio, c'è stata una lunghissima perizia, quindi si è protratto, ma per sì. Una perizia di qualche migliaia di pagine, e insomma io il 17 marzo ho la sentenza, l'avvocato l'altro giorno in tribunale mi ha detto: signor Doriano, se passa il processo breve e viene attuato prima del 17 marzo, non facciamo neanche la sentenza. Certo, perché si applica a tutti, cioè è una se diventa legge dello Stato. E quindi, Doriano, lei dice: io sono parte lesa, insomma, non... qua nel testo io ci ho perso tutto, qualche centinaia di migliaia di euro, non lo so, cioè, finisce tutto, io il 17 ho la sentenza. Allora io voglio dire questo qua: si poteva fare il processo breve, giusto, ma perché non è stato fatto a partire dal 2010? Io, per salvare il Premier, io e tanti altri dobbiamo, ma io, se il problema dell'Italia è una persona, cortesemente questo signore si toglie da parte. E vabbè, ma lei parte da una premessa e dire: secondo me serve per salvare il Premier, insomma, solo per chiaro, quello. Perché vabbè, Gaspari, questo... l'intervento io l'ho visto ieri, Gaspari è stato chiaro. Chiaro proprio al Senato. Vabbè, ma Doriano, questa è la sua posizione, la ringrazio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Il 75% di voi dice no, non siamo d'accordo con la frase del Premier, cioè quella plotoni d'esecuzione. Prima però vorrei andare un altro ascoltatore, poi torno un attimo dal senatore Musso. Marco da Como, che dice? Buongiorno. Dica. Senta, io facevo una considerazione. Mi pare che tutelare le cariche dello Stato possa essere anche eventualmente legittimo. Sì. Il problema di questa legge è che manda in prescrizione un processo per cui il signor X, in questo caso Berlusconi, domani chiunque altro, alla fine della sua carica il processo non lo subirà più. Però il signor X è presidente del Consiglio, voglio dire, lei ha detto tutelare le cariche è giusto, sì, come principio. Nel senso, la tutelino oggi finché è presidente del Consiglio, ma se questa legge passa, io ho capito che il processo va in prescrizione. Beh, certo, in prescrizione. Quando Berlusconi finisce di essere presidente del Consiglio non viene più processato. È un processo che va in prescrizione vuol dire che finisce, ma non è che questo lei può criticare il fatto di mandare in prescrizione il processo breve, lei può contestare. Però se è in prescrizione un processo non è che si fa risorgere dalle ceneri. Comunque insomma lei non sta bene. Grazie Marco. Brescia, Giancarlo. Sì, buongiorno. Dica. Ma io sono d'accordo su questa situazione che si sta creando. Per semplice motivo. Cioè che vuol dire? D'accordo con la legge? Sì, perché a bel momento io dico, se è vero quello che riportano certi quotidiani nei giorni scorsi, che abbiamo più magistrati degli altri paesi europei, abbiamo una maggiore spesa giudiziaria degli altri paesi europei. Io come esperienza personale, un'esperienza stupida se vogliamo così via, perché era una cosa civile a livello condominiale eccetera eccetera, un giudice per emettere una non sentenza ha impiegato 6 anni. Sì, lei dice colpa dei magistrati, non lavorano, vecchio cavallo di battaglia, questo dice Giancarlo, non lavorano i magistrati? Io vedo dei magistrati a spasso alle 10, 11 della mattina e così via. Ci vorrebbe il badge come Brunetta. Ci vorrebbe il badge come Brunetta. Detto, ma forse badge. Quello serve anche poco, perché poi uno può stare in ufficio e non lavorare. Ah, ecco. Va bene, grazie Giancarlo. Oh, senatore Musso, ha sentito Stracquadagno, dice lei non ha ascoltato. È stato detto che era anche per salvare, da preservare la figura del Presidente del Consiglio, la carica del Presidente del Consiglio. Quindi, sì, ma forse non mi sono spiegato bene il problema. Io ho ascoltato bene l'intervento di Gaspari, per molti aspetti l'ho anche apprezzato, ma il problema era che se si fossero dichiarate i due obiettivi distinti e si fosse provveduto di conseguenza con due provvedimenti distinti, non ci sarebbe stato il problema della norma transitoria retroattiva, è quella che, per esempio, nell'esempio del signor Doriano, sì, ha creato dei problemi. Io per esempio ho votato il lodo Alfano, al di là della sua incostituzionalità poi sancita, perché quello mi sembrava uno strumento più pulito e più efficace per l'altro obiettivo. Anche l'ultimo, il penultimo forse intervento telefonico sollevava questo tema, piuttosto che vedere la prescrizione preferirei un rinvio dei termini e un processo dopo la carica, come succede adesso a Chirac, per esempio, senza senso. Sì, sì, che viene sospeso il processo, ma poi in Francia poi viene ripreso una volta che la carica, insomma, uno non la ricopre più. Onorevole Straquadagno, ecco, io adesso voglio arrivare al punto. Ecco, la frase, capisce, i giudici, se vado al processo ci sono plotoni di esecuzione contro di me, per carità, adesso non vorrei tirare in ballo il partito dell'amore dove è andata a finire, però una frase del genere è una frase molto forte, no? Straquadagno, converrà con me, almeno questo, insomma. È una frase della quale mi vendi col copyright, le dirò. Ah, eccolo, l'abbiamo trovata, perché, cioè, lei gliel'ha suggerita a Berlusconi. Io non so se l'ho suggerita, io l'ho scritta sul Predellino, il quotidiano online che dirigo, a proposito di una situazione che appare evidente a tutti. L'altro giorno nel Tribunale di Milano la difesa di Berlusconi in uno dei processi ha chiesto l'applicazione di una sentenza della Corte Costituzionale. Ebbene, il Tribunale lo ha rifiutato, è un fatto inaudito, perché una sentenza della Corte Costituzionale di natura processuale è autoapplicativa e i magistrati sono tenuti ad applicarla senza ulteriore indugio e senza alcuna distinzione. Invece, con una interpretazione del tutto arbitraria del loro ruolo e della sentenza stessa, è stata richiesta è stata negata una richiesta della difesa. Questo lei lo chiama applicazione della giustizia o plotone di esecuzione? Ho capito. Veda, c'è un problema che straordinario nella vita politica e nella vita civile italiana, che qualcosa va bene a condizione che non riguardi Berlusconi. Finché si discuteva della estinzione dei processi sulla proposta del Partito Democratico, senza che qui nessuno avesse introdotto il tema Berlusconi, quello era un provvedimento giusto, sacrosanto, da sostenere. Nel momento in cui questo riguarda Berlusconi, allora il provvedimento non va più bene. C'è una persecuzione contro persona. Ma mi dica perché odiano antropologicamente, politicamente, perché ma ce l'avrebbero? È chiaro che, siccome politicamente l'opposizione, la sinistra, non è stata capace in 15 anni di sconfiggere politicamente Berlusconi, perché Berlusconi ha sempre prevalso nelle urne, anche quando temporaneamente ha subito, come dire, uno stop in una battaglia, poi la guerra di lungo periodo l'ha vinta Berlusconi, c'è una è dal 94 che c'è un tentativo di usare la giustizia come arma politica, quello che è accaduto anche nei confronti di Bettino Craxi, come ha detto, un accanimento senza precedenti, anche il capo dello Stato. Vorrei andare allora da Leoluca Orlando, onorevole, per concludere, insomma, ma alla fine il processo breve riguarderà tutti, anche il nostro Doriano che ci ha chiamato da Latina, ma siamo sempre lì a parlare di Berlusconi. Questo noi ci ostiniamo a parlare invece dell'esigenza della giustizia, dell'esigenza di colpire coloro che sono responsabili e tener conto delle parti lese. Questa legge, quando verrà approvata, produrrà effetti per i prossimi decenni, perché avremo esempi come quello appena sentito che si andranno ripetendo in tutte le realtà del nostro paese e subentrerà inevitabilmente la sfiducia nei confronti della giustizia, con la conseguenza che ancora una volta un cattivo esempio, se posso usare questa espressione, è una forma di imbarbarimento complessivo del paese. Il tema non è più il conflitto di interessi di Silvio Berlusconi, una persona, ma che sta diventando una cultura, per cui siamo circondati dai Berlusconi di condominio, Berlusconi di borgata, Berlusconi di paese, di campagna e di città. Il tema non è soltanto che si mette in salvo una persona, Berlusconi, ma si manda il messaggio che questo è uno Stato nel quale si possono commettere reati, tanto poi arriva anche con effetti retroattivi una norma altro che indulto. Questa è una forma generalizzata di dichiarazione di resa dello Stato di fronte al crimine, con tutte le conseguenze che io definisco di vera e propria eversione istituzionale. Ci dobbiamo fermare qui, ringraziando l'onorevole Giorgio Stracquadagno e Leo Luca Orlando, rispettivamente PDL Italia dei Valori, così come il senatore Musso, anche lui del PDL. Ci fermiamo, grazie. Dovete votare sul sito radio24.it se che ne pensate della frase di Berlusconi: i miei processi, plotoni d'esecuzione, di cui Stracquadagno ci ha detto rivendica il copyright, scritto nel suo Il Predellino, la rivista online. Ci fermiamo, Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia. Do la linea Oscar Giannino, che parla di Obama, un anno di Obama, e noi ci sentiamo domattina.